Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. In Sargante e traghettatore per l'appuntamento domenicale con Ferry Boat. Vi parliamo degli appuntamenti della settimana che sta per arrivare. Cominciamo martedì 21 giugno a Milano, nella sede di Altis, l'altra scuola imprese e società della Cattolica. Si parla di un tema che è quanto mai, ahimè, di attualità: ristrutturare le aziende. Ovviamente, essendo organizzata dal CSR Manager Network ed essendo questo Ferry Boat, il modo di affrontare questo tema è responsabile. Ristrutturare le aziende in modo responsabile è infatti il tema che viene affrontato dal CSR Manager Network. Sempre martedì, ma al Museo della Scienza e della Tecnica, restiamo nell'ambito della sostenibilità. Questa volta parliamo di un tema di grande attualità, che è l'alimentazione. L'evento, organizzato dal WWF, si intitola Semi di Sostenibilità, e chiediamo a Gianfranco Bologna, direttore scientifico di WWF. Gianfranco, che cosa vuol dire semi di sostenibilità e qual è il tema che si affronterà durante questo convegno? Allora, semi di sostenibilità è esattamente quello che ciascuno di noi può mettere a disposizione per cambiare, per innovare. Siamo tutti protagonisti della situazione attuale che abbiamo nei confronti del mondo naturale, di quello che abbiamo combinato al mondo natura, quindi come siamo parte del problema possiamo essere parte della soluzione del problema. I semi di sostenibilità sono quello che ciascuno di noi fa, individuo, famiglia, impresa, istituzioni, mondo dei media, mondo della cultura, mondo della conoscenza, della formazione e dell'informazione, per cambiare e rendere questo passaggio fondamentale dalla, chiamiamola, cultura del consumo alla cultura della sostenibilità. Ecco, questi sono i semi. Martedì parlate però di a tavola, si va a tavola con questo concetto, corretto? Esattamente. Il convegno invece parlerà, si concentrerà sui problemi dell'alimentazione, che sono uno dei grandi problemi del nostro futuro. Abbiamo, come ben sappiamo tutti, quest'anno raggiungeremo i 7 miliardi di abitanti sul pianeta, abbiamo una crescita quasi di 79 milioni annuali, 3 miliardi di persone in qualche modo stanno cercando di salire la catena alimentare e di arrivare a livelli di maggiore disponibilità, non solo di quello che, di cui si nutrono, ma anche di quello di cui vogliono a disposizione in termini di capacità di consumo, quindi di capacità di acquisto. È un problema grandissimo, perché questo confligge con la possibilità di mantenere i sistemi naturali nel nostro futuro e quindi far mantenere la nostra civiltà. Di questo tratteremo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, e credo che sia uno degli argomenti molto molto importanti per il futuro di noi tutti. C'è anche una questione, ahimè, di grande attualità in questi giorni, di sicurezza, oltretutto non solo di, come dire, di problema di base dell'alimentazione, ma anche di garantire quelli che invece il cibo ce l'hanno. Beh, questo fa parte purtroppo del fatto che noi siamo attori del cambiamento globale, noi siamo oramai diventati i grandi agenti della modificazione degli ecosistemi. Questo ci sta comportando un ruolo di acceleratore o di modificatore dell'evoluzione naturale, e questo ci sta comportando un ruolo anche di subire queste modificazioni che noi stessi in qualche maniera induciamo nei sistemi naturali. I problemi, per esempio, che riguardano il batterio killer e quello che di fatto avviene anche nel campo dell'alimentazione da questo punto di vista, riguarda anche in molti casi, riguarda anche proprio il fatto di come noi stiamo sconvolgendo, stravolgendo quelli che sono gli equilibri dinamici dei sistemi naturali. Quindi una grande attenzione per la sostenibilità anche al discorso del legame che c'è tra salute e cambiamento globale. Grazie a Gianfranco Bologna, direttore scientifico di WWF. Alla prossima. Grazie a voi. Chiudiamo questa edizione domenicale di Ferry Boat, che vi ricordo va in onda alle 6.50 e alle 14, con la conferenza stampa che ci sarà mercoledì nella sala San Bernardino della chiesa di Sant'Angelo a Milano. Siamo in chiesa perché si lancia la terza edizione del Festival Francescano di Reggio Emilia. È un festival decisamente singolare, perché tocca le corde di questo dei francescani, di un movimento, in questo caso dell'Emilia Romagna, che è un po' una parte integrante della storia di questo paese e soprattutto della passione di questo paese. Nella città del Tricolore, dal 23 al 25 settembre, ci saranno iniziative culturali, spirituali, artistiche e didattiche organizzate proprio dal movimento francescano. È tutto per oggi. Ringraziamo Anita Panizza per la collaborazione in redazione e Valeria Bernardi in regia.